Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Persone in ascolto, nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che guarda il mondo di tutti gli animali, umani e non. In questa puntata parleremo di antispecismo e migrazioni, della fine delle risorse naturali sul pianeta Terra, di tigri sull'orlo dell'estinzione e di una richiesta di grazia molto particolare. Vi aggiorneremo inoltre sulla situazione relativa a Zoo Marine e sui macachi di Torino. Altre notizie, la musica scelta da Giuseppe Coco e il piatto non violento del giorno di Gabriele Palloni, dedicato alle tigri, completeranno il quadro. Now it gets exciting, because cells start dividing. A new organism. Now we can go swimming in that primordial soup. Now is the time to out of the water, puffing and panting onto dry land. I held your hand on a rocky shoreline. I stood erect for the very first time. Il 29 luglio è stata una giornata molto particolare. Si è celebrato, per così dire, l'Overshoot Day, ovvero la data in cui le risorse della Terra terminano e si inizia a dare fondo alle riserve del pianeta. Una data che ormai cade sempre prima del calendario, da quando abbiamo cominciato a sovrasfruttare le risorse negli anni 70. L'Overshoot Day è frutto del lavoro del Global Footprint Network, un'organizzazione di ricerca internazionale che monitora l'impronta ecologica dell'uomo, ovvero quanto la presenza umana incide in termini di consumo delle risorse della Terra, e ha stimato che in media tutto il mondo consumerà nel 2019 le risorse di 1,75 pianeti. Secondo l'organizzazione sono quattro i fattori chiave che determinano la domanda di risorse di un paese: come questo edifica le città, come fornisce energia, come si nutrono i suoi cittadini e quanti abitanti conta. Cosa possiamo fare dunque per invertire la rotta, visto che di anno in anno questa data viene sempre più anticipata? Secondo l'organizzazione, sostituire il 50% di consumo di carne con una dieta vegetariana contribuirebbe a spostare la data dell'overshoot di 15 giorni in avanti, mentre ridurre la componente delle emissioni di CO2 dell'impronta globale del 50% sposterebbe la data di overshoot di ben 93 giorni. E a proposito di riduzione di anidride carbonica, è proprio di pochi giorni fa l'annuncio di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese, ad aver confermato la sua presenza al summit delle Nazioni Unite sul clima, che si terrà a New York a settembre. Come promesso, ha fatto sapere con un post sui suoi profili social, non prenderà l'aereo, ma raggiungerà la Grande Mela a bordo di una barca a vela guidata da Pierre Casiraghi, il figlio di Carolina di Monaco e marito dell'italiana Beatrice Borromeo. Probabilmente a qualcuno questa iniziativa farà storcere il naso, come molte volte già accaduto quando si è parlato di Greta, ma è indubbio che la determinazione della giovane attivista saranno di ispirazione per molti giovani e che mai come negli ultimi mesi si è parlato così tanto delle tematiche ambientali. Il 29 luglio è una data da ricordare anche per un altro triste record. Nella giornata mondiale dedicata alle tigri, che ricorre appunto il 29 luglio, Il WWF ha riportato dei dati agghiaccianti. Sarebbero infatti 3.890 le tigri rimaste libere in natura, rispetto alle 100.000 dell'inizio del secolo scorso. E nonostante i numerosi sforzi di conservazione, la specie è protagonista di un inarrestabile declino, con un calo della popolazione stimato di circa il 97% rispetto appunto un secolo fa. Numeri che fanno davvero venire i brividi, se pensiamo alla velocità con cui si è ridotta la popolazione. Bracconaggio, distruzione delle foreste, commercio illegale di pelli e altre parti del corpo sono ancora oggi le principali minacce per il futuro di questi animali. Il bracconaggio in particolare si fonda ancora su credenze popolari, alimentando un mercato illegale legato anche alla medicina tradizionale cinese, che utilizza alcune parti del corpo di questi animali, come organi interni, ossa o denti, per la produzione di medicinali. Sebbene ci siano paesi come il Nepal che registrano numeri in controtendenza, la maggior parte dei paesi in cui le tigri sono concentrate non fanno decisamente abbastanza per tutelarle, e spesso il rapporto con questi felini è sempre più conflittuale. Basti pensare ad esempio al triste episodio avvenuto proprio il giorno della vigilia della Giornata Internazionale delle Tigri, dove uno di questi esemplari è stato massacrato e letteralmente linciato, dopo che una tigre aveva aggredito alcuni pescatori che erano entrati nella riserva dedicata alle tigri e che era costata la vita ad una persona, il ferimento di altre 8. L'agguato è avvenuto nella riserva di Pilibhit, a circa 350 km a est di Nuova Delhi, in una delle tante aree in cui la tigre è animale protetto. Una tutela che evidentemente non collima con lo spirito delle popolazioni locali e l'atrocità con cui l'animale è stato abbattuto lo dimostra. L'autopsia ha infatti rilevato che ogni parte del suo corpo era stata colpita ripetutamente e che molte delle sue ossa erano state frantumate. Davanti a tante atrocità e a scenari di un futuro sempre più critico e incerto, sia per gli animali umani che per gli animali non umani, si rimane quasi inermi e senza speranza. Eppure bisogna continuare a credere e a portare avanti le proprie battaglie. Chi decide di farlo attraverso abitudini alimentari più oculate o atteggiamenti più attenti all'ambiente, o chi ancora militando in associazioni o collettivi, e chi come noi della redazione di Restiamo Animali cerca di tenervi aggiornati su quanto si muove intorno al mondo degli animali, appunto umani e non, perché di animali e della questione animale tout court si parla ancora troppo poco. Dedicata alle tigri, la ricetta della settimana del nostro geniale e instancabile tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Tutti sanno ripetere velocemente tre tigri contro tre tigri, ma nessuno sa dire li vuoi quei kiwi? E a proposito di kiwi, ascoltate questa ricetta per utilizzare in maniera originale questo frutto. Ma guarda cosa mi tocca inventare per dare una ricetta a tema. Guacamole di kiwi con bastoncini di ceci. Gli ingredienti per 4 persone sono 125 g di farina di ceci, mezzo litro di brodo vegetale, 4 kiwi, la polpa di mezzo avocado, un cipollotto fresco, un cucchiaio di succo di lime, un peperoncino fresco piccante, un pomodoro maturo ma sodo, un ciuffetto di coriandolo fresco tritato, olio extravergine di oliva e sale. Prima cosa, preparate la base dei bastoncini di ceci. In una pentola portate all'ebollizione il brodo vegetale, spengete il fuoco e versate la farina di ceci a pioggia, setacciandola e mescolando con una frusta affinché non si formino grumi. Rimettete sul fuoco e fate cuocere a fiamma molto bassa per mezz'ora, facendo attenzione che non si attacchi. Quando l'impasto tenderà a staccarsi dalle pareti della pentola, potrete spengere il fuoco. Spennellate di olio una teglia e versateci l'impasto, che lascerete raffreddare. Nel frattempo preparate la guacamole. Svuotate i kiwi con un cucchiaino, mantenendo integra la parte esterna che userete come contenitore per servire la salsa. Frullate la polpa di kiwi assieme all'avocado, il lime, il cipollotto, il coriandolo, il peperoncino e 2 cucchiai di olio extravergine. Aggiustate di sale ed emulsionate fino ad ottenere una crema bella liscia. Tagliate il pomodoro a cubetti molto piccoli, fate scolare il liquido e unite alla guacamole. Adesso tagliate l'impasto di ceci a bastoncini, simili a patatine fritte, e friggete in immersione in olio ben caldo. Servite la guacamole fresca all'interno del guscio dei kiwi, accompagnando con i bastoncini di ceci ben caldi. Torniamo a parlarvi di M49, l'orso in fuga dal 15 luglio scorso dal centro di Castelleri in provincia di Trento, dove era stato rinchiuso dopo essere stato catturato e perseguitato dalle ordinanze di abbattimento da parte del presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ordinanze a cui si è opposto anche il ministro dell'Ambiente Costa. Ma niente sembra far desistere l'amministrazione trentina e il 25 luglio la Lega Antivivisezione ha tentato un'altra disperata carta. Alcuni suoi esponenti si sono recati al Ministero di Grazia e Giustizia per chiedere al ministro Bonafede di inoltrare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella formale richiesta di grazia per l'orso. M49, dichiara la Lega Antivivisezione, è in grado di esprimere chiaramente il suo bisogno di libertà, cosa che ha fatto fuggendo dalla prigione di Casteller, ma non è evidentemente in grado di rappresentare autonomamente i suoi diritti. Questo non vuol dire che non ne abbia. Ecco perché, continua Lav, abbiamo voluto rappresentarlo davanti al capo dello Stato. Un suo appello in questa direzione, continua ancora la Lav, riaffermerebbe norme minime di civiltà e confermerebbe che l'Italia è un paese che ripudia ogni forma cruenta di risoluzione dei problemi e che promuove la convivenza tra animali e umani, nel pieno spirito del nostro dettato costituzionale. Feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew. E a proposito di fuggitivi e di soggetti in movimento, sentiamo Massimo Filippi con le sue lezioni di antispecismo. The wave of love is a transient hut. Water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. A proposito dell'uccisione e dello sfruttamento industriale di decine di miliardi di animali ogni anno, il filosofo francese Jacques Derrida afferma: l'annientamento è certamente in atto, e tale annientamento sembra passare attraverso l'organizzazione di una sopravvivenza infernale in condizioni che gli uomini del passato avrebbero giudicato mostruose. Secondo l'ONU, circa 300 milioni di migranti, ossia il 4% della popolazione mondiale, sono oggi in movimento e hanno raggiunto un paese straniero. Negli ultimi 15 anni, 34.000 di queste persone hanno trovato la morte mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo alla ricerca di un futuro migliore. Anche se ad alcuni potrà suonare scandaloso, è difficile, sia nel caso dei migranti che in quello degli animali, non pensare che sia in atto un genocidio. In effetti, lo stesso Derrida ad evocare un simile accostamento e a sostenere che non bisogna né abusare né tralasciare frettolosamente la figura del genocidio quando si considera ciò che subiscono i non umani nelle nostre società. Ovviamente le differenze storiche, culturali, politiche ed economiche tra il trattamento riservato a chi cerca di fuggire dalla miseria e dalle guerre e quello riservato agli animali sono molteplici e quindi una loro superficiale equiparazione sarebbe un'operazione sconsiderata. Diventa perciò necessario individuare meccanismi comuni, non identici, che rendono possibili queste due forme di sofferenza inaudita, assumendo responsabilmente il peso di entrambe. A questo proposito, torna utile la riflessione del filosofo italiano Giorgio Agamben sulla macchina antropologica, la cui prestazione principale è tracciare e giustificare confini fintamente naturali tra l'uomo con la U maiuscola, bianco, maschio, eterosessuale, abile e proprietario, che pensa di poter disporre a proprio piacimento dell'intero universo e il resto del vivente. Semplificando molto, si può affermare che questa macchina esclude nel momento stesso in cui si appropria di chi espelle dalla sfera dell'umano. Ecco allora che comincia a delinearsi il fondo comune di quei meccanismi di cui si è detto. I migranti non sono esclusi come clandestini e contemporaneamente appropriati come lavoratori in nero o badanti? E gli animali, quando vengono trasformati in carne, non sono anch'essi simultaneamente espulsi e appropriati? Il razzismo, inoltre, prevede spesso l'animalizzazione di chi non viene naturalizzato come occidentale. Meno evidente, pertanto da sottolineare, è che anche gli animali cosiddetti da reddito sono preda di processi di animalizzazione. Che cosa sono, ad esempio, polli, galline e vaiole se non animali animalizzati, al contempo esclusi dalla sfera della libertà e catturati in quella del profitto? Il sistema capitalistico, inoltre, per poter funzionare, necessita tra le altre cose di corpi docili e il più possibile immobili. La mobilità dei corpi va arrestata in posture fisse, i migranti a casa loro e gli animali dentro i dispositivi di smembramento. Il movimento è inaccettabile perché si associa a soggetti fuori luogo che trasgrediscono e mettono in scacco il tagliente sistema delle linee di confine. In questo caso, quello della patria fatto di sangue e suolo e quello della specie fatto di spirito e di intelletto. Infine, e malgrado tutto, questi corpi abietti, al pari di tanti altri, sono in grado di mettere in atto forme di resistenza, certo diverse nella loro modalità di espressione, ma accomunate dallo stesso desiderio di vivere e di vivere bene. Come interpretare altrimenti gli scioperi della fame, le automutilazioni, la fuga dai centri di detenzione o la creazione di spazi urbani autonomi come è accaduto nella cosiddetta giungla di Calais? E come interpretare le fughe, i morsi e i colpi d'artiglio che avvengono quotidianamente nei mattatoi, negli allevamenti, nei circhi e negli zoo? Derrida afferma che negli ultimi due secoli la guerra sulla pietà, quella guerra in cui si fronteggiano coloro che negano la compassione perfino agli umani e coloro che la vorrebbero estendere anche agli animali, si è fatta più intensa che mai e che mai come oggi la sproporzione delle forze in campo è stata così sbilanciata. Ma subito, quasi sussurrando, si affretta ad aggiungere: questa inuguaglianza potrebbe un giorno capovolgersi. Compito della politica trasformativa, di cui l'antispecismo è parte, è avvicinare questo momento. In Minima Moralia, Theodor Adorno, filosofo tedesco di origini ebraiche e rifugiatosi negli Stati Uniti per sfuggire dalla barbarie nazista, scrive: «L'affermazione ricorrente che i selvaggi, i negri, i giapponesi somigliano ad animali contiene già la chiave del pogrom». Nel 1971 Ilya Trojanov, ancora bambino, fugge dalla Bulgaria per cercare asilo in Germania. Oggi scrittore di successo, nel libro Dopo la fuga scrive: talora il rifugiato si imbatte in persone che hanno paura di lui. Vorrebbe tanto sussurrare loro: badate che quello che ha paura sono io. Io sono quello che ha perduto tutto. Sono io a essere esposto, indifeso, a tutto. Il vostro patrimonio non è mai stato in pericolo quanto la mia vita. Per vari motivi ho scelto di leggere questi brani invece di selezionare una storia esemplare tra le infinite che si inabissano ora dopo ora ai posti di confine o dentro i macelli. Innanzitutto perché selezionare esemplari è un'operazione pericolosa. Da un lato, infatti, può facilmente cadere nel racconto pornografico e dall'altro, seppur involontariamente, può rafforzare la narrazione egemone che occulta la violenza strutturale che percorre da cima a fondo la nostra società. In secondo luogo, questi due passaggi ci raccontano il prima e il dopo la fuga, sottolineando per contrasto il loro recupero del durante la fuga e delle innumerevoli fughe finite in tragedia. Adorno e Troyanov, poi, sono bianchi che hanno migrato da un paese occidentale a un altro. Immaginiamoci allora che cosa significhi per uomini e donne con un altro colore della pelle imbarcarsi in una fuga da paesi devastati dalle politiche guerrafondaie e neocoloniali di quegli stessi paesi in cui cercano ospitalità. Il minimo che si possa dire è che certamente non invadono, ma piuttosto che sono invasi dal terrore e da un razzismo che, ribaltando la realtà, vorrebbe farci credere che in pericolo saremmo noi e i nostri patrimoni e non loro e le loro vite. E immaginiamoci anche che cosa possa provare un animale in fuga quando si trovi in un ambiente sconosciuto, ostile e completamente antropizzato. Questi brani ci pongono di fronte a quella che Hannah Arendt, filosofa tedesca, anche lei di origini ebraiche, ha chiamato la banalità del male e quella che il già citato Adorno ha ribattezzato la malvagità del banale. A quella banalità che continua incessantemente a sfruttare e uccidere moltitudini sterminate di viventi. A quella malvagità che, ora più che mai, siamo chiamati a mettere in stato di arresto. My imagination now leads to Ed è il momento delle good news. Buone notizie infatti per i delfini. Il Consiglio di Stato ha confermato il divieto di nuoto con i delfini nelle vasche di Zoo Marine, respingendo così la richiesta d'appello del Parco Acquatico Romano contro la sentenza del TAR del Lazio dello scorso maggio, ottenuta in seguito alle battaglie delle associazioni animaliste. Zoo Marine sarà quindi costretto a rinunciare a un'importante fetta di incasso che avrebbe guadagnato quotidianamente facendo nuotare i visitatori con i cetacei, poiché il Consiglio di Stato ha stabilito la prevalenza della tutela della salute, del benessere e della sicurezza dei delfini rispetto agli interessi economici delle attività commerciali. E sono anche giornate di liberazioni per alcuni animali selvatici. Sono tornati in libertà nel parco della Salina di Cervia 20 fenicotteri rosa, sequestrati e confiscati dalla polizia provinciale di Modena nelle scorse settimane a un allevatore di fauna selvatica che li deteneva senza essere in regola. Gli esemplari sono stati curati dai volontari dell'associazione Il Petti Rosso e poi liberati. Le immagini della liberazione sono straordinarie. Metteremo il link sul nostro sito perché meritano assolutamente di essere viste. E in questi giorni poi hanno riconquistato la libertà anche 5 giovani di falco pellegrino. Erano stati rubati dal proprio nido, ma grazie a un'operazione condotta dai carabinieri del nucleo specializzato Soarda, i 5 rapaci hanno potuto di nuovo assaporare la libertà in provincia di Palermo, dopo un periodo di recupero al centro di recupero Lipu di Ficuzza. Sfortunatamente il prelievo di piccoli e di uova di alcune specie di uccelli in alcune aree d'Italia, tra cui il falco pellegrino, continua a essere una seria minaccia per le popolazioni nidificanti. Chiudiamo la puntata comunicandovi alcuni sviluppi relativi al progetto di ricerca dell'Università di Torino che vede coinvolti alcuni macachi e che ha scosso l'opinione pubblica e di cui vi abbiamo parlato abbondantemente nelle precedenti puntate. Sembra che la determinazione e il lavoro congiunto delle associazioni animaliste, unitamente alla crescente sensibilità dell'opinione pubblica, stia dando i primi frutti. Dopo oltre un anno di azioni legali e 2 ricorsi al TAR, il Ministero ha infatti consegnato alla LAV Lega Antivivisezione i documenti relativi all'autorizzazione del protocollo sui macachi di Torino, sebbene dapprima ne avesse negato l'esistenza e poi l'accessibilità. Non è una vittoria, ma un importante passo nella giusta direzione. Saranno infatti mesi di duro lavoro, dichiara la Lega Antivivisezione, e pieni di iniziative, presidi e tavoli informativi nelle 2 città protagoniste di questa campagna. In programma anche 2 cortei. A questo proposito, la redazione di Restiamo Animali vi invita a segnare in agenda questi 2 appuntamenti, i 2 cortei citati nel comunicato LAV, il 14 settembre a Parma e il 12 ottobre a Torino. E con questa ultima notizia è davvero tutto, almeno per questa settimana. E vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco, Gianni Ferrarotti, Camilla Lattanzi e Francesca De Matteis, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 496 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.